La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, le 16.31 primi 46 secondi di questo lunedì 8 febbraio e in diretta da Milano vi saluta Oscar Giannino, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it e vi annuncio subito l'argomento della puntata per chiedervi di telefonare e intervenire all'800 24 0024. Perdonate le opinioni con gli sms 349-238-6666. Uniamo insieme due vicende e quindi in particolare mi rivolgo agli italiani che appartengono alle due aree interessate, la provincia di Vercelli, perché siamo in presenza di una lettera di una ventina di sindaci del Vercellese che si rivolgono al prefetto reggente di Vercelli Raffaella Attianese, e in questa lettera i sindaci chiedono un rafforzamento del dispositivo di sicurezza contro furti, rapine e malavite che è a loro giudizio, e come testimoniano le vicende di cronaca nera, molto più forte di quanto non sia la presenza dello Stato, e chiedono quindi al prefetto, senza alcuna polemica, semplicemente chiedono al prefetto però di inoltrare per via gerarchica al Ministero degli Interni la richiesta di mandare l'esercito per rafforzare i troppo scarni presidi della polizia e dei carabinieri. Quindi, innanzitutto, se siete vercellesi, diteci cosa ne pensate e se siete d'accordo. Seconda cosa, completamente collegata, del tutto analoga, ma questa volta senza una richiesta, mandare l'esercito a Napoli. Questa è la dichiarazione che trovate sul giornale di oggi, ieri resa dal ministro dell'Interno Alfano, di fronte alla recrudescenza di un fenomeno che però ci ha spinto diverse volte nell'ultimo anno e mezzo, me personalmente, a dire che c'era una grave responsabilità dei media nazionali a non occuparsene, e cioè ai morti ammazzati di camorra dalle gang locali della camorra a Napoli e nel napoletano, nel grande agglomerato urbano che non coincide affatto con i confini della città ma che coinvolge 2,5 milioni di persone. Siamo al ritmo in questo inizio 2016 di due morti ammazzate a settimana, e di fronte a quello che è avvenuto tra venerdì e sabato, cioè tre uccisi a pistolettate in 24 ore, e al fatto che meritoriamente, secondo me, Repubblica ha cominciato in questi giorni, devo dire unico quotidiano nazionale, a dedicare almeno due pagine al giorno a quello che succede a Napoli con le baby gang, al di là delle vecchie famiglie della camorra in lotta senza esclusione di colpi e con morti casuali per le loro quotidiane manifestazioni di forza nelle diverse parti che controllano o di cui rivendicano il controllo a Napoli nel napoletano. Di fronte a questo il ministro dell'Interno, e cioè secondo me proprio di fronte a Repubblica, devo dire la verità, tanto per essere chiari e per non sottovalutare la responsabilità che abbiamo noi anche dell'informazione a fregarcene di queste cose, ieri ha dichiarato l'esercito a Napoli. Allora, naturalmente io non sto facendo paragoni, sa sui tipi di malavita, sui colpi nelle case e villette del Vercellese, su rapine, furti sistematiche che vengono documentate nei comuni del Vercellese rispetto al grande, ohimè, tragico, ohimè, fenomeno storico della presa della malavita e delle attività illegali a Napoli. Per esempio oggi, in altre pagine dedicate secondo me meritoriamente da Repubblica alla situazione napoletana, oggi vi segnalo un'intervista di Isaia Sales, che è un ex parlamentare del PD, professore universitario, esperto di criminalità organizzata, e che non ha peli sulla lingua nel dichiarare che Napoli è la più grande piazza di spaccio in tutta l'Europa per quello che riguarda la cocaina, di cui anche la spiegazione dell'efferata ferocia con cui ci si contende il mercato e il controllo territoriale, che non è solo del pizzo e del ricatto ma passa anche attraverso il pizzo e il ricatto. Allora la domanda è molto semplice: l'esercito che viene di volta in volta mandato dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio nel 92, nel 2008 dopo l'offensiva dei clan dei casalesi in provincia di Caserta, in questi anni con l'operazione Strade Sicure in parecchie parti d'Italia, compreso Milano, secondo voi è la risposta adeguata a questi che sono problemi veri, verissimi, gravissimi, ma che forse imporrebbero una soluzione diversa dall'esercito. Io ricordo a tutti che l'esercito oramai da parecchi anni non ha più niente a che vedere con l'esercito della coscrizione obbligatoria, cioè è formato da volontari in servizio permanente effettivo di durata più o meno lunga che vengono addestrati per operazioni di tipo completamente diverso, che hanno equipaggiamenti di tipo completamente diverso, che hanno quindi postulato un investimento da parte pubblica di noi tutti volto a tutt'altri fini che quello di utilizzarli come cooperanti del presidio territoriale, a cominciare dalle armi di cui dispongono, le armi personali, cioè la R70, il fucile mitragliatore d'assalto, la beretta non è un tipo di arma adeguato per queste cose, e così via. Allora, la mia opinione, per quello che vale, è che noi diamo la risposta a problemi molto seri se utilizziamo ancora l'esercito in questa forma suppletiva, di supplenza per così dire, diamo una risposta sbagliata. E allora, rispetto al fatto di dire sì, vabbè, ma è meglio di niente, bisognerebbe profondamente interrogarsi sul fatto che di anno in anno non riusciamo mai poi a trovare una risposta adeguata per la razionalizzazione delle forze di polizia. Ricordate le spending review, ricordate che si è riuscito solo a ottenere, e molti ritengono che sia sbagliato, l'accorpamento della forestale ai carabinieri e così via. Ecco, questo è secondo me il vero punto di fondo, perché se lo Stato in parti notevoli non riesce a garantire la legalità, la prevenzione prima ancora della repressione, qui c'è un problema di fondo che riguarda il nostro paese. È vero che siamo in presenza, ho concluso, di una tendenza nazionale alla diminuzione dei reati di sangue e dei delitti più gravi. Napoli però è un'eccezione assoluta a questo, e non la scopriamo solo oggi, perché è un anno e mezzo che io dico ogni tanto: ma possibile mai che ci occupiamo di ogni sparatoria negli Stati Uniti e non di quelle che avvengono a casa nostra? Ecco, conclusione. Allora, mentre ci chiamate per dirvi se siete favorevoli o meno a questa risposta, sia pur per esempio l'unica possibile oggi, a questi problemi seri e gravi, cerchiamo di capire però che cosa ha spinto questi sindaci del Vercellese a richiedere al prefetto Raffaella Attianese, che è il prefetto reggente di Vercelli, intanto di mandare l'esercito, e che cosa poi hanno appurato incontrando anche poi alla prefettura il responsabile periferico dello Stato. Ne abbiamo due di sindaci con noi, abbiamo Raffaella Oppezzo, che è sindaco di Costanzana. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. E Claudio Tambornino, che è sindaco di Caresana, sempre in provincia di Vercelli. Anche un saluto e un ringraziamento a lei, Tambornino. Buon pomeriggio a tutti voi e grazie anche per me per l'invito. Grazie. Allora, sindaco Pezzo, com'è nata questa iniziativa vostra? Allora, l'iniziativa direi che è nata dalla disperazione. Perché purtroppo il nostro territorio è dall'autunno scorso, quindi dall'ottobre scorso, che purtroppo è continuamente soggetto a furti nelle case dei nostri cittadini. Quindi questi malviventi continuano incessantemente tutte le notti, e addirittura in alcune notti fanno più furti in una stessa notte, addirittura si è arrivato anche a 12, a 17 furti in una stessa notte, e quindi, siccome appunto è colpito incessantemente da questo tipo di problema, che noi riteniamo essere un problema molto grave, perché chiaramente mette a disagio i cittadini che non si sentono più assolutamente sicuri nelle loro case, noi a fronte di tutto questo abbiamo interessato la prefettura, perché ritenevamo che fosse diciamo l'ente più competente, diciamo, per darci una mano. Ritengo che, e questo perché le forze dell'ordine fanno quello che possono senza sicuramente risparmiarsi, però purtroppo sono poche, perché comunque sono in sottorganico, quindi è chiaro che le nostre stazioni di carabinieri che sono presenti sul territorio ovviamente sono in i componenti che ci sono appunto all'interno, i carabinieri che ci sono all'interno di queste stazioni, non bastano per quanto riguarda il numero appunto per il pattugliamento e quant'altro. E ci ritroviamo in una situazione che è andata peggiorando, perché all'inizio erano furti principalmente magari in case vuote, perché... Sindaco, le chiedo solo una cosa, sì, per far capire a chi ascolta. Quando, sì, dice all'inizio, cioè questo fenomeno ha assunto in quale dimensione, sì, temporale questa certo, soglia di, allora, pericolosità? Parliamo da ottobre. Da ottobre ha cominciato ad essere effettivamente un fenomeno molto, molto, molto, molto frequente. Quindi da ottobre scorso sono stati presi di mira primi alcuni comuni e poi dopo altri. E all'inizio entravano in case vuote perché magari il proprietario era andato a fare la spesa piuttosto che a lavorare. Successivamente poi c'è stato un po' un progredire, no, del tipo di intrusione, perché poi successivamente i ladri hanno cominciato ad entrare anche in case dove c'era la gente che stava cenando con i propri figli, con la propria famiglia. E adesso è successo proprio nel mio paese venerdì scorso il fatto peggiore, ovvero che il proprietario è stato addirittura aggredito, ed era proprio la preoccupazione nostra di tutti i sindaci quando siamo appunto andati in prefettura. Abbiamo fatto presente la situazione e abbiamo detto: guardate che noi temiamo che la cosa peggiori, che si vada verso a quella che è una vera e propria rapina con maltrattamento e magari pestaggio delle persone che vivono nelle proprie case. E il caso vuole proprio che è accaduto subito dopo. Posso chiedere al sindaco Tamburrino, da una parte avrete, dopo 2 mesi e mezzo che avvengono queste cose, parlando con i vostri cittadini, verso chi è stato vittima di questa serie concentrata oramai nel tempo e crescente di episodi, qualche opinione intorno al fatto se si tratti di una più bande, non lo so, che ha identificato questo territorio per iniziare il proprio disegno criminoso, da una parte, se avete delle idee scambiandovele tra di voi e confrontando anche la dinamica degli eventi, dove sono avvenuti e a che cosa miravano, e dall'altra vorrei sapere anche da lei, quando avete incontrato in prefettura appunto il rappresentante dello Stato, la prima risposta qual è stata, Tamburrino? Guardi, io sono rimasto meravigliato, come lo sono, credo siano rimasti tutti i sindaci. È stato uno snocciolamento di dati, di verifiche fatte nel corso degli anni, di raffronti con il passato, dicendoci praticamente che i furti in percentuale nel Vercellese e nella città di Vercelli sono diminuiti. Dica lei se il riferimento esatto sia quello da portare in una riunione di quel genere lì, quando noi stiamo parlando di un periodo molto preciso. Quindi, come ha detto il sindaco di Costanzana, da ottobre dell'anno scorso ad oggi, in realtà la prefettura ci ha riferito dei dati legati ad un arco temporale molto più ampio. Sì, certo che non faceva riferimento a quello che vi ha spinto coi vostri cittadini sotto, che immagino premano su di voi e voi ne siete interpreti, certo, perché non è che ve lo siete inventati. Il disagio è un disagio sociale diffusissimo oramai. Non esiste paese dove non si parli d'altro che di questa situazione. Quando calano le tenebre c'è una netta sensazione di paura. Le ha già riferito il sindaco precedentemente, oramai siamo passati all'intrusione in casa. Ma voi cosa pensate che sia in realtà? Guardi, stiamo parlando ovviamente di sospetti infondati, ma per far capire a chi ascolta. No? Allora, l'arma dei carabinieri, la questura, ci hanno detto che loro l'attività investigativa la stanno affrontando su tutti i fronti, non ci hanno riferito alcun dato, giustamente perché un'attività investigativa coperta da riserva deve essere divulgata, quindi tecnicamente non saprei darle un volto e un nome. Si parla di bande che arrivano dall'Astigiano e dal Torinese, però guardi, io potrei dirle quasi sicuramente perché questo lo dico per chi non è piemontese, chi non legge la cronaca della stampa, nell'Astigiano e nel Monferrato fenomeni simili sono avvenuti in precedenza l'anno scorso, quindi stiamo parlando di un fenomeno che si sposta, sta identificando aree in cui colpire all'interno della stessa regione. Naturalmente questo non significa sapere chi sono gli organizzatori e coloro che perpetrano questi delitti contro il patrimonio, ma come avete sentito anche con rischi molto gravi verso la vita, però è un fenomeno di questo tipo. E quindi, se capisco bene, Tamburino, il prefetto ha detto, non vi ha detto, cioè che vi ha mandato a casa dicendo tutto a posto, no? No, il prefetto ha detto, come dicevo, snocciolato una serie di dati, ha detto che l'attività sia investigativa che di presenza sul territorio è notevolmente aumentata, ma il perché della nostra richiesta dell'esercito è perché noi non siamo titolati a sapere quali siano, certo, i meccanismi necessari per poter interrompere queste attività. Sarebbe opportuno che sia la prefettura, la questura e l'arma dei carabinieri che indichino a noi quali sono i meccanismi, esatto, migliori per prevenire. Noi diamo delle idee, diamo delle proposte, sono loro che dovrebbero darci delle risposte in merito. Io ricordo a tutti che mentre la prefettura ovviamente è l'articolazione territoriale dello Stato e quindi coordina anche le diverse forze dell'ordine di sicurezza nazionali presenti sul territorio, ci sono i comitati per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica a livello ex provinciale, cioè a livello di prefetture, anche il sindaco nel nostro ordinamento ha delle responsabilità in quanto ordine e sicurezza locale come presidio territoriale, ovviamente, però non trovandosi nella condizione di poter avere forze a propria disposizione. In questo caso io trovo corretto che i sindaci abbiano fatto questa istanza. Quello che vorrei sottolineare a chi ci ascolta non è che hanno chiesto l'esercito, perché immagino i carri armati i sindaci, però noi dice, noi facciamo questa richiesta, però lo Stato ci dica. Allora, torniamo tra un minuto, informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Dagli ascoltatori opinioni in una vasta forbice, immaginavo, e non mi sconvolge, non mi sorprende che molti dicano autodifesa, ronda e così via. Io devo dire la verità, non credo molto nell'autodifesa, nelle ronde di chi non è, insomma, di chi non è addestrato, né a usare le armi, né è un pubblico ufficiale e così via. Cioè, quando si arriva a quello vuol dire che lo Stato non è in condizione di garantire un diritto naturale fondamentale per cui esiste. Quindi siamo in una fase di crisi a quel punto patente dello Stato. Alcuni altri sono d'accordo sul fatto che l'esercito non può essere la risposta e il problema è quello di avere un'articolazione diversa alle nostre forze dell'ordine. Io stesso mi metto in quel partito. Sentiamo, prima di tornare ai nostri sindaci, alcune delle vostre telefonate però. Cominciamo con Sergio che ci chiama da Napoli. Prego Sergio. Salve, buonasera. Buonasera. Mi chiamo da Napoli. Riguardo proprio all'utilizzo delle forze dell'ordine unitamente all'esercito. Sì. Napoli in realtà già c'è da diversi anni. Quindi non è una novità. Ci sono 400 militari in questo momento. Il problema è il modo in cui vengono utilizzati, perché utilizzarli per compiti che non sono proprio loro di istituto, non hanno funzioni di polizia giudiziaria, quindi molte cose non le possono nemmeno fare. Esatto. È uno spreco di risorse enorme, perché per quello che costa l'addestramento e la preparazione, sono d'accordo con lei, di un sottufficiale dell'esercito oggi, e poi non permettergli di fare quello che devono fare. Allora c'è da fare il rastrellamento, ben venga l'utilizzo, diciamo, della forza armata in questo senso, però nell'ordinario servono le forze di polizia. Servono le forze di polizia, ma servirebbe l'utilizzo soprattutto di strumentazioni che oggi non ci sono, strumenti e dotazioni personali, ma a cominciare dalla carta negli uffici e alla benzina nelle auto che non possono uscire. Io credo che Napoli da decenni meriterebbe, ma non solo Napoli, perché la Calabria idem, con patate e così via, cioè ci sono aree del paese dalle grandi città che rimangono in sofferenza, di là del nord centro-sud. Sono zone sacche in cui si soffre. Perché di più il fenomeno piemontese in corso dal 2015 fino al 2015 dimostra che non è che è una questione antropologica il sud e il nord, cioè ci sono emergenze vere che richiederebbero ben altra riorganizzazione delle forze dell'ordine. Andrea da Livorno, come la pensa Andrea? Sì, io confermo il fatto che purtroppo la risposta dei militari potrebbe essere giusta, se non che i militari hanno solo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quindi non possono compiere assolutamente l'arresto, non possono fare nessuna perquisizione, non possono fare nessuna ispezione e devono operare sicuramente a fianco di una pattuglia della polizia o dei carabinieri. Quindi in realtà non danno nessuna risposta se non un senso di percezione di sicurezza, ma oggi non abbiamo bisogno di palliativi, ma abbiamo bisogno di risposte concrete. Una ristrutturazione della polizia, aumentare gli uomini della polizia, io la penso come lei, Giannino. Io credo che il problema sia la pubblica amministrazione. Oggi la polizia e i carabinieri sono la pubblica amministrazione. Oggi per far uscire 5 volanti a turno a Napoli serve 2.000 persone all'interno della questura. Questo è follia. È follia, lo so, lei ha perfettamente ragione. Solo che a dirlo sembra che poi si critica l'incriticabile, perché poi i poliziotti dicono non è colpa nostra, hanno anche ragione, però ohimè, così è. Non creda che a Milano chissà che dispositivo ci sia, tanto per parlare. Non crediate che ci sia l'efficienza con decine di volanti, perché non è così. Neanche a Milano, questo è un problema nazionale per come sono strutturate le forze dell'ordine amministrativamente. Carlo da Ivrea. Carlo, c'è? Buonasera. Buonasera. Certo. Sì. Io dicevo che sono a 14 km dalla zona di Vercelli. E quindi, come capita quando si fa la deratizzazione, si nota che i topi hanno un'intelligenza tale per cui si spostano dall'altra parte. E quindi mi riallaccio a quello che avete detto voi. Cioè, lei dice che siccome nel Monferrato, nell'Astigiano erano, si sono spostati nel Vercellese. Sì, le caratteristiche poi delle zone abbastanza abitate da persone anziane in zone un pochino isolate si prestano a essere individuate come prossimo obiettivo. Allora, in questo non ci resta che sperare che le attività di indagine riescano a identificare questi fenomeni. Però io a questo punto ho una domanda per entrambi i sindaci. Ricomincio da Raffaella Oppezzo. Avete vostri cittadini che magari iniziano a pensare ci autodifendiamo? Assolutamente sì, assolutamente sì. E cosa gli dite? Lei come sindaco? Allora, io devo dire la verità, da una parte li posso comprendere, perché si sentono, come mi sento io, indifesi. Perché, come dicevo prima, loro le case di ognuno di noi, è il luogo dove uno vive e sta e si sente sicuro e si sente pieno di certezze in casa propria, si sente sicuro, si sente tranquillo. Adesso non è più così, quindi è impossibile, pensare che una persona possa entrare in casa mia, mettere in pericolo me, ma soprattutto la mia famiglia. Ha perfettamente ragione, perché la violazione della dimora è equiparabile in termini di diritto naturale a una violazione contro la persona umana. Da questo punto di vista non sto parlando della proporzionatezza della reazione, deve essere proporzionata la reazione, ovviamente, secondo il nostro codice penale, secondo ragionevolezza, però è una violazione paragonabile. E a questo punto non so, lo chiedo anche a Claudio Tambornino, a chi dei suoi dice qualcosa dovremmo pur fare, il sindaco nel suo caso che cosa può rispondere? Guardi, tutti quelli che hanno subito il furto e anche quelli che non l'hanno subito mi rispondono tutti nello stesso modo: ci difendiamo da soli. Io dico a loro di non farlo perché ne va del loro rischio, per la loro famiglia e della loro vita. È un esempio quello che è successo a Costanzana. Ad oggi a Caresano non è ancora successo, ma temo che possa succedere a breve. Dico semplicemente a tutti di chiamare immediatamente il 112, perché in effetti le volanti sono sul territorio. Ne ho avuto riscontro io la sera scorsa, chiamate sono arrivate immediatamente. Quindi la prima cosa che dico loro è questa. Dico che per quanto è possibile polizia e carabinieri ci sono, l'amministrazione comunale è sempre presente, il mio telefono è sempre a disposizione di tutti, in effetti tutte le sere uno squillo mi arriva sempre, perché gli ho detto anche meglio un avviso in più, certo, meglio una targa sbagliata, meglio una comunicazione che non c'entra nulla piuttosto che una violenza. Allora io do atto ai sindaci del Vercellese di stare agendo con grande equilibrio, li sentite, cioè non c'è una strumentalizzazione politica dietro, c'è un fatto. Quando lo Stato perifericamente si scopre scoperto, non si può dire alla gente, arrangiatevi. E credo che a Napoli, dove il fenomeno da decenni è sotto i nostri occhi, lì è un'emergenza pazzesca di fronte alla quale secondo me non ha senso buttarla in politica. Lì c'è uno Stato che ha bandiera bianca da decenni. e quindi i morti ammassati dipendono anche da questo. Io non sto incolpando lo Stato, dico però che lì c'è un fenomeno endemico da decenni, ecco. E solidarietà ai napoletani, ovviamente, onesti che sono tantissimi, la stragrande maggioranza. Continuate con Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Mina, domani alle 8:15, attenti a noi due.